anything. And Bongo Jam's a speciality. E adesso, per introdurre appunto la Comune di Parigi, sentiamo la canzone Les Temps de Cerise, che è una canzone che fu scritta nel 1866 da Jean-Baptiste Clément e Antoine Renard, e è una canzone che appunto parla della Comune e che è stata rifatta da tantissimi cantautori e cantatrici francesi, e a voi l'ascolto, Les Temps de Cerise. Il tempo delle ciliegie. Ed è una canzone che l'autore ha dedicato a un'infermiera che è morta durante la settimana di sangue della Comune. Le merle mais il est bien cool. Ci scusiamo per il mix non previsto. L'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court le temps des cerises. Pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma adesso cambiamo completamente genere, parliamo sempre di rivoluzione, ma questa volta con Tracy Chapman, con Talking About Revolution, secondo singolo di questa cantante afroamericana del 1988. Talking About Revolution è una versione unplugged proprio datata. Don't you know you're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know you're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know you're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up

passando invece al reggae con Dennis Brown Revolution. Dennis Brown, cantante appunto giamaicano, nato nel 57, morto nel 1999, famosissimo e importante anche per la collaborazione con Stevie Wonder e altri artisti internazionali. E andiamo a mettere una delle sue canzoni più famose, Revolution, Dennis Brown. Parliamo della Comune di Parigi perché sono 150 anni e si festeggia, e ci sono questi writer francesi che si chiama Rasputin, che hanno riprodotto tutte le foto della Comune di Parigi, le hanno plotterate e le hanno attaccate in giro per la città. Potete andare sul sito rasputin.org E quindi è molto divertente perché hanno riprodotto anche il giornale della Comune di Parigi per riportare alla memoria questo grande avvenimento della storia francese. E per questo ci sentiamo la Comune di Gabber. Da una vita ci guardiamo, sì, va bene, ci vogliamo bene, ma come tutti ci isoliamo, ci deve essere per forza un'altra soluzione. Forse la comune non ha senso, la famiglia coniugale, ho bisogno di trovare un'apertura a una vita troppo chiusa, troppo uguale. Forse la comune dove ognuno può portare le sue esperienze, un po' stretti, qualche volta in poche stanze, ogni tanto qualche piccola tensione, qualche duno mi ha svegliato, adesso non riesco più a dormire, chi si è bevuto il mio caffè, chi si è messo ancora il mio costume, tento la comune, specialmente per i figli uno spazio nuovo, per ognuno tante madri e tanti padri, voglio dire senza madri e senza padri, tento la comune, non esiste proprio più niente che sia possesso, ed è molto più normale volersi bene. Finalmente non è più un problema nemmeno il sesso. Da te non me l'aspettavo, ti credevo una ragazza sana, e pensare che ti stimavo, ti comporti come una puttana. Amo la comune, la tua donna preferisce un altro, ma è naturale, non fa niente se si ingrossa la tensione, poi l'angoscia, poi la rabbia più bestiale. Amo la comune, senza più nessun ritegno si arriva ad odiarsi, e alla fine quando esplode la tensione. E tra l'impeto forte di Giorgio Gabber, dico qualche parola sugli Area, il gruppo che stiamo per ascoltare, appunto con la canzone Gioia e Rivoluzione, per rimanere in tema. Gli Area sono un gruppo degli anni 70, attivo dal 1972. Importante è il loro obiettivo, ovvero quello di creare, di superare quello che è l'individualismo artistico e creare appunto una musica totale di fusione e di internazionalità. Famosi, diciamo, proprio per essere uno dei primi gruppi di rock progressive. Importanti sono anche le loro influenze free jazz, di musica elettronica, etnica e di sperimentazione. E è importante anche il loro impegno politico, infatti questa canzone è intrinseca, diciamo, del loro impegno. Andiamo ad ascoltare The Metro Stratus e gli Area con Gioia e Rivoluzione. Se posso, una delle canzoni più belle, diciamo, degli anni 70, ma proprio della musica non strana di tutti i tempi. Per te, che mi viene a sentire. Suono per te che non mi vuoi capire. Rido per te che non sai sognare. Suono per te che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa amare, che ci porta sulle strade. gente che sa amare, il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Innanzitutto un saluto alla nostra studentessa preferita che ha preso 28 e ha finito gli esami e la laurea si avvicina sempre di più. E brava. E passiamo a parlare delle donne della Comune di Parigi che sono state fondamentali. Fra queste ricordiamo ovviamente Louise Michel, che nacque nel 1830 e morì nel 1905, che è stata un'anarchica e un'insegnante francese. E le donne, soprattutto quelle del 18° arrondissement, furono molto importanti perché organizzarono il comitato di vigilanza dei cittadini, che era presieduto da una sarta, Sophie Doctrinal, che, e questo, diciamo, questo comitato si distinse per la grande attività. E fu creato nel 1870 e appunto ci furono Louise Michel, una russa, membro dell'internazionale, e organizzarono scuole, ospedali e varie. E passo la parola alla mia amica mamma Trona adesso. The revolution is my boyfriend. Fra noi. Risale agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte le modificazioni della materia organizzata e rende a te l'evidenza quando te ne offro i mezzi. Cerca, indaga e distingui, se puoi, i sessi nell'amministrazione della natura. Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme armonioso a questo capolavoro immortale. L'uomo si è affastellato un principio di questa eccezione, bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacia, nell'ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali, pretende di godere della rivoluzione e reclama i suoi diritti all'uguaglianza, per non dire niente di più. There will be no revolution without sexual revolution. Le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione chiedono di potersi costituire in assemblea nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione pubblica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi e della felicità di tutti. Abbiamo letto Olympe de Gouges con sottofondo gli Stereo Total, adesso stiamo sentendo Ben Harper, Better Way. Olympe de Gouges l'hanno ammazzata per quello che ha detto, quindi effettivamente la rivoluzione del 1789 non è stata esattamente una rivoluzione femminista. Adesso cambiamo completamente genere musicale, passiamo al new metal con un gruppo, i Deftones, che insieme ai Korn hanno iniziato questo genere musicale. Ascoltiamo Change, proprio perché oggi si parla di cambiamenti, di mutazioni e quindi di Change. Deftones, Change, se lo ripeto un'altra volta, arriviamo a 800 punti per quanto ho detto. Ciao. Facciamo un salto, passiamo a un genere musicale altro, cioè la musica techno o anche art tech, con gli Spiral Tribe, che sono tra i più importanti sound system techno degli anni 90, da cui che sono alla base della formazione di tutta la cultura dei rave party, insieme al concetto delle zone temporaneamente autonome di Akin Bay. appunto nasco negli anni 90 e ci andiamo a sentire proprio un brano di quel periodo del 92, quale c'è, cioè una traccia, non un brano, quale è Forward the Revolution di Spiral Tribe. Gli Spiral Tribe from Brighton and Hove. Viva le Tazma! Sotto casa del Bono Baleiro. Marrona si conclude qui, salutiamo tutti e ricordiamo l'appuntamento per giovedì prossimo. Just get enough. I just can't get enough.